Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di uno degli artisti più enigmatici, più ricchi di talento che siano mai nati in Gran Bretagna. C'è stato veramente un plebiscito, un sacco di richieste affinché noi parlassimo di questo signore, e io sono ben felice di accontentarvi. Lui è stato per anni il frontman dei Genesis, ha avuto una carriera veramente variegata sia con la band che soprattutto dopo, ha contribuito a molte colonne sonore di successo negli anni 90, nel nuovo millennio è stato uno dei primi a dare coscienza sociale alla musica, gli si può attribuire il merito di avere divulgato nell'Europa occidentale quella che poi passerà alla storia come world music, e insomma l'avete capito, mi auguro, stiamo parlando di Peter Gabriel. E sentiamo cosa ha detto proprio il nostro protagonista durante un'intervista a Rolling Stone. Siamo nel 2011, la sua indole non è cambiata. Qualcuno potrebbe guardare la mia carriera e dire: quest'uomo ha commesso un suicidio commerciale. Ha fatto quel disco di enorme successo nel 1986 e poi ha aspettato 6 anni per dargli un seguito. Poi ne ha aspettati ancora 10 per farne un altro, e adesso eccoci, che sono passati ancora 10 anni e non si vede nemmeno l'ombra del prossimo album. Nulla da eccepire dal punto di vista commerciale, ma ho avuto una vita interessante e a 61 anni questa mi sembra una soddisfazione ben più grande. Se riesco ancora a pagare le bollette, e delle volte capita che la cosa più importante sia proprio quella, allora sono felice. Eh sì, questo è quello che dovrebbe dire un artista che si rispetti. Non è quasi più così, ma noi facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo in Inghilterra, nel Surrey, a un'ora da Londra. Peter Gabriel nasce il 3 febbraio 1950, un anno dopo nascerà una sorella che si chiama Anne. La famiglia è benestante e lui prende l'aspetto più intellettuale dal padre Ralph, che è un ingegnere visionario, amante delle religioni, delle culture orientali, e poi prende però la passione per la musica dalla madre, che ama il pianoforte, che ha delle sorelle che cantano. E lui ha un'infanzia senza scossoni, gioca nella fattoria, si immerge nella natura, gli piace sognare di volare, sapere che la sua giovinezza è trascorsa in mezzo alla campagna ci spiega meglio alcune immagini che torneranno ciclicamente nelle sue canzoni, tipo per esempio la mitica Willow Farm. If you go down to Willow Farm to look for butterflies, butterflies, butterflies. Open your eyes, it's full of surprise. Everyone knows what the fox from the rocks. And the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Plastic bag, what a rag! Everything, we're growing everything. We've got some men, we've got some out, we've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. Mum to mud to mad. To dad, dad in the office. You're all full of all dad to dam, to dam to mum, mum diddly washing, mum diddly washing. You're all full of all. Let me hear your lies. We're living this up to the eyes. Tu durante la scuola elementare la madre gli fa prendere lezioni di pianoforte perché vuole avvicinarlo alla musica classica, ma lui è attirato da altre sonorità, al canto, dalla batteria, al suo primo grande amore. E gli insegnanti notano che Gabriel promette bene come cantante. Appena può, lui compra dal fratello di un amico il suo primo tamburo, un timpano che gli costerà 10 sterline. E a 12 anni compone la sua prima canzone, si chiama Sammy the Slug. Segue la zia cantante alle prove, appena può mette via dei soldi per comprarsi il primo album della sua vita. Dopo aver ascoltato un singolo che si chiama Love Me Do, appena esce questo album lui corre a comprarlo. È l'album di un gruppo di Liverpool, i Beatles, si chiama l'album Please Please Me. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Il Falco e il Gabbiano. E i Beatles sono in testa alle classifiche inglesi con She Loves You quando il 13enne Peter Gabriel inizia il suo primo quadrimestre alla Charterhouse, un istituto privato nei pressi di Londra, nel settembre del 63. E lì c'è un incontro con alcuni dei compagni di scuola che cambieranno per sempre la vita di Peter Gabriel, perché lui è un ragazzo dallo spirito libero, però è determinato, refrattario alle regole del suo istituto. Però l'incontro con altri compagni sarà quello che lo aiuterà ad andare avanti. Senza alcun dubbio, la conoscenza di Gabriel e Banks rappresenta la prima pietra per la nascita dei Genesis ed anche la ragione per cui Gabriel avrebbe lasciato il gruppo 10 anni dopo l'inizio. Nato il 27 marzo 1950 a East Hotley, nel Sussex, a 13 anni Banks era già un abile pianista. Io gli dissi: «Ciao, sono Banks». E lui mi disse: «Io sono Gabriel», perché a quei tempi si usava solo il cognome, racconta Tony sorridendo. Ricordo che ebbi l'impressione che fosse un tipo abbastanza tranquillo, baffuto, dall'aspetto piuttosto serio, per niente minaccioso, inoffensivo, ecco. Come racconta Daryl Easley nel libro Senza Frontiere di edizione Arcana, è proprio tra le mura di quell'istituto scolastico frequentato dai rampolli della borghesia britannica che nasce il seme per uno dei più grandi gruppi di progressive rock, i Genesis. No, non si considerano un vero e proprio gruppo, ma un insieme di persone che scrive canzoni, che ama il blues. La verità è che Peter Gabriel diventerà il frontman e nel tempo sarà lui a giungere agli show della band anche una grande componente teatrale, con bizzarri costumi di scena che lo porranno all'avanguardia nel campo delle performance dal vivo. l'amore per i travestimenti probabilmente ha origine nei giochi che Peter faceva con la sorella durante le vacanze estive nella casa vittoriana del nonno, quando i due bambini rovistavano nel baule ricco di vecchi costumi, si divertivano a indossare maschere, abiti stravaganti, quel gioco teatrale che poi verrà ripreso per esempio nella canzone Musical Box e segnerà per sempre quel gioco Peter Gabriel, che si esprimerà attraverso molti travestimenti, soprattutto da cantante dei Genesis. I may join with you. All your hearts now seem so far from me. It hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies. My song. Here it comes again. Insomma, per lui la musica è tutto e la sua passione è condivisa con altri compagni di scuola. La formazione originale dei Genesis risulta proprio dalla fusione di due band di ragazzini, gli Anon e Garden Wall. C'è Peter Gabriel, ma c'è il suo migliore amico che è Tony Banks alle tastiere, e c'è un chitarrista e bassista che si chiama Mike Rutherford, e poi ci sono un chitarrista Anthony Phillips e un batterista Chris Stewart. E vengono scoperti da un ex allievo del college, Jonathan King, è un cantante, un produttore, li battezza Genesis e fa firmare loro un contratto con la Decca nel 67. Loro sono ancora minorenni. A febbraio del 68, mentre i Beatles stanno incidendo Lady Madonna, i Genesis pubblicano il loro singolo di esordio, si chiama The Silent Sun, e l'album d'esordio uscirà poco dopo. È un album di quelli introvabili ma importanti, si chiama From Genesis to Revelation, del 69. È un album che a me piace molto, è un album ispirato dai modi blues, un po' di folk rock tipo i Family e Cat Stevens. Peraltro Gabriel si ispirava, si dice, all'inizio a Cat Stevens. In realtà già dalle sessioni di registrazione si capisce che il batterista forse non è all'altezza. Nel 70 il batterista e il chitarrista abbandonano la band e c'è un salto di qualità, perché alla chitarra arriva un certo Steve Hackett, ma soprattutto arriva un batterista che è Phil Collins. Ed esce il secondo album, Trespass, e parte il primo tour con brani molto lunghi. C'è The Knife, per esempio, che dura 9 minuti. È la formazione più celebre, quella dei Genesis, quella del successo, che arriva puntualmente con un album che farà la storia del progressive, un album che si chiamerà Nursery Crime. E poi nel 73 arrivano in Italia, perché va detto che uno dei paesi nei quali i Genesis vendono più dischi e hanno più fan è proprio l'Italia, e questo ci fa capire quanto eravamo avanti una volta rispetto a oggi. Il complesso dei Genesis sta effettuando una tournée in Italia. Li abbiamo incontrati a Torino. Sono Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Michael Rutherford, Steve Hackett, e a chiedere a Peter Gabriel il perché di quel titolo al loro ultimo disco, Selling England by the Pound, ci si sente rispondere. We're selling England by the pound, that's what England is doing. And so in our... Vendere l'Inghilterra potrebbe essere il primo passo per realizzare un nostro programma personale sul tema di come diventare ricchi e famosi in 2 anni. Le storie raccontate nelle vostre canzoni contengono spesso un messaggio. Che cosa volete dire? Well, fantasy, I think. Oh, per lo più sono storie fantasiose, sì. Storie di pura fantasia. Una fantasia di gruppo, naturalmente. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 16. Questo giornale radio non va in onda per lo sciopero indetto dai giornalisti di Radio 24. Finestre informative alle 8, alle 13 e alle 19. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la storia di Peter Gabriel, che in questo momento è all'apice del successo, di un successo non certo plebiscitario da bimbette minchia, ma un successo importante. Stiamo parlando del progressive, stiamo parlando di anni gloriosi nei quali con i Genesis fa uscire altri due album bellissimi, perché dopo Nursery Crime arriva Foxtrot e poi arriva Selling England by the Pound e poi arriva un live e poi arriva The Lamb Lies Down on Broadway, e qui il gruppo raggiunge l'apice del successo internazionale, un album doppio, anche questo meraviglioso. Però la gente va a vedere i Genesis, va a vedere un progetto meraviglioso, ma va a vedere Peter Gabriel, e lui, che è una persona schiva, comincia a soffrire questa situazione. Poi arrivano le tensioni interne alla band e poi arriva la difficile gravidanza della moglie, che rischia di morire, danno alla luce la loro figlia. E poi nei Genesis, va detto, c'è una componente spinta da Phil Collins che ambisce a ben altri tipi di successo, ambisce al successo popolare, e difatti, insomma, vedrete, insomma, un po' la fine che ha fatto Phil Collins negli anni, non è certo stato all'altezza della band. Insomma, nel 1975 Peter Gabriel decide per una svolta improvvisa, uno shock per tutti. Io fatico ancora oggi a riprendermi, perché Peter Gabriel esce dai Genesis. Ho fatto un sogno ad occhi aperti. Poi ne ho fatto un altro, in cui avevo il corpo e l'anima di una rockstar. Quando ho cominciato a non sentirmi più a mio agio, l'ho riposto nel cassetto. Come artista, ho bisogno di assorbire una gran varietà di esperienze. La crescita di denaro e di potere, se fossi rimasto, mi avrebbe inchiodato al palcoscenico. E a quel punto i Genesis devono trovare un successore. Si dice, la leggenda narra, che abbiano fatto 400 audizioni e alla fine Phil Collins, quasi torto collo, decide di cantare. In realtà, secondo me, è esattamente il contrario, che Phil Collins ha spinto Peter Gabriel piano piano, passo dopo passo, fuori dai Genesis, perché voleva diventarne il frontman e traghettarli dal prog a un poppettino di, certo, di fattura ben più bassa. Ma noi torniamo al nostro protagonista. Siamo nel 75, per Peter Gabriel inizia la seconda fase della sua vita, una carriera da solista in cui sperimenterà varie soluzioni e alla fine si parlerà anche di world music. Comunque è una persona apertissima agli innesti, alle influenze dettate dai ritmi, dai sapori di altre culture. Nel 77 esce l'album Peter Gabriel, chiamato Car, per via di una copertina bellissima che vede il cantante in macchina sotto la pioggia. Il singolo di debutto si chiama Salisbury Hill, che nasce proprio raccontando la sua dipartita dai Genesis e un'esperienza spirituale in cima a Salisbury Hill nel Somerset in Inghilterra. È un'esperienza dalla quale lui dice che impara che bisogna lasciare andare ciò che si è ottenuto per provare ad andare avanti e ottenere di più. Dopo esce il secondo album, anche questo senza titolo, con Gabriel in copertina con dei grafici che gli ricoprono il volto, il nome in codice diventa Scratch. E dopo due anni esce il terzo album, anche esso senza titolo, e in codice viene chiamato Melt. È un disco minimalista, essenziale, dove lui sembra trovare un nuovo stile con suoni diversi, con molte percussioni. E poi arriva l'estate dell'82, è una stagione di svolta, perché c'è un festival che viene organizzato a Shepton Mallet, si chiama WOMAD, World Music Artist and Dance, dedicato alla valorizzazione delle musiche etniche, e due mesi dopo arriva PJ4, un disco visionario, ma il festival prepara al pubblico album successivi, quelli della consacrazione e della sperimentazione, che diventeranno storia, Birdie e Soul. Birdie è la colonna sonora del film di Alan Parker, Birdie, Le ali della libertà, con Tim Robbins nei panni di un uomo condannato a due ergastoli per omicidio che riuscirà a scappare da un carcere di massima sicurezza. Come mai sei dentro? Sono innocente, se vuoi saperlo. Ti sei ambientato in fretta, eh? Rimpiangerai di non essere morto, vedrai! Ci sono dei posti a questo mondo che non sono fatti di pietra, con dentro qualcosa che nessuno può toglierti. Ma di che parli? Di speranza. Oh, signore del cielo. Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. Lui scelse di vivere. Nell'album Soul dell'86, Peter Gabriel inserisce un titolo in copertina, mette la sua vera faccia. È un album frutto di collaborazioni importanti, tra cui Usundur, che all'epoca era sconosciuto. È un album che lo manda in cima alle hit, triplo disco di platino nel Regno Unito, 5 volte disco di platino negli Stati Uniti. Uno dei brani che piacciono di più è la mitica Sledgehammer, che lui presenta addirittura anche Pentathlon a Canale 5, programma di Mike Buongiorno. È venuto in Italia appositamente per lanciare questa sua nuova canzone che è già ai primi posti nella hit parade internazionale. Per cui, signori, accogliamolo con un applauso, Peter Gabriel. I used to be a drummer, not a very good drummer, but soul music was my passion, and so this is my attempt to recreate some of that. The music of the 60s, music of in the a way. 60s soul. People like Otis Redding were my heroes. Ecco, allora il suo grande eroe era Otis Redding, come sapete, quindi era un grande musicista, e soprattutto dobbiamo ricordare che lui era un batterista e quindi ama soprattutto questi ritmi. So tonight you're going to show us the video of this new song. What is the title of the song to begin? The title is Sledgehammer. Sledgehammer. Che è già in testa alle hit parade di tutto il mondo. Sledgehammer, tradotto in italiano, sarebbe la mazzata. Allora, io direi, ascoltiamoci tutti insieme con il nostro grande ospite, con Peter Gabriel, Sledgehammer. Sì, Peter Gabriel arriva spesso in Italia, famosa una Shock the Monkey cantata dal palco di Sanremo, in cui lui si appende a una corda e poi scivola e batte una schienata clamorosa sul frontespizio del palco dell'Ariston. Lui ama veramente molto il nostro paese, e intanto arriva Martin Scorsese, che gli chiede di lavorare al film L'ultima tentazione di Cristo, e da questa esperienza esce un album che si chiama Passion. Oh! ormai è l'alfiere della world music, un genere praticamente che inventa lui. Nel 2000 pubblica OVO, OVO, colonna sonora per lo spettacolo al Millennium Dome di Londra, e poi negli anni si dedica alla produzione musicale, alle nuove tecnologie, e intanto ha una vita privata molto intensa con donne belle, molto interessanti, che si alternano al suo fianco e se le merita tutte, tra cui l'attrice Rosanna Arquette, con cui Peter starà circa 5 anni, lei che di lì a poco sarebbe diventata famosa recitando in Cerca si Susan disperatamente al fianco di Madonna, e gli manda un po' sotto sopra la sua vita sentimentale, che è già abbastanza complicata e affollata, perché lui intanto è sposato, la moglie Jill non lo perdona, ma la prima figlia non lo vuole vedere, e il cantante vive un periodo di grande depressione. E poi arriva anche la grande Sinéad O'Connor, e poi una bella avventura con Claudia Schiffer, non so se abbiamo capito, no? E poi arriva nella sua vita Mea Flynn, che ha 22 anni meno di lui, che diventa la sua seconda moglie, che gli darà anche altri 2 figli, Isaac e Luke. E nel 2002 si sposano, e sapete dove? In Sardegna, in un hotel che lui ha sempre amato, che poi ha acquistato, il Licapani, 5 ettari di terreno tra Cannigione e Palau, nella parte più bella della Sardegna settentrionale. Qui trova un paradiso, insomma, da tempo lui è cittadino onorario di Arzachena. C'è anche una leggenda che circola, non so se è vera, che c'è una volta in cui nel paese manca il cantante della festa di piazza, e Peter Gabriel scende con degli amici che erano tipo Omar Hakim e Tony Levin, e suonano di fronte ai vecchietti di quel paesino. Io non so se è vero, ma ci voglio credere. E da Up del 2002 in avanti Peter Gabriel continua e continuerà a scrivere la storia. Io sono anche onorato di averlo conosciuto a un festival di Sanremo. Una persona che ha saputo dare colpi d'ala ripetuti con grande curiosità. È uno di quelli che è riuscito a coniugare il successo, il mercato, con la classe, lo stile, la voglia di sperimentare. Stiamo parlando veramente di un numero uno. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può volare molto in alto. E se voi volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina o venite nei miei, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose a side. I took the old track. On the tall cliffs, they were getting older. Sons and daughters, the jaded underworld was riding high. Waves of steel, of metal, at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Thank you.